Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Pietro Salini, 56 anni, romano, sposato con un figlio, laurea in economia, dal 94 amministratore delegato del gruppo di famiglia. Dal gennaio del 2014 è il numero uno del gruppo nato dalla fusione tra Salini e Impregilo, un'operazione clamorosa in un momento di enorme difficoltà del settore. Adesso guida un colosso che fattura 4,2 miliardi di euro e opera in 50 paesi. Qualche numero: 230 dighe e impianti idroelettrici, 6.700 chilometri di ferrovie, metropolitane e aeroporti, 36.000 chilometri di strade e autostrade. La sua è una passione di famiglia ereditata dal nonno e dal padre. È il numero uno di una tribù vastissima, il capo assoluto dopo un durissimo scontro anche in famiglia, risolto, come dice lui, rendendo ai parenti difficile lamentarsi. L'azienda oggi ha 34.000 dipendenti sparsi nel mondo, 4.000 in più dello scorso anno. Esattamente un anno fa qui lui ci diceva: ma noi abbiamo un programma di assumere 15.000 persone nel piano industriale, quindi nei prossimi 4 anni. 15.000 persone? Sì, vogliamo fare una bella crescita. L'azienda tende a un raddoppio della sua dimensione in termini strutturali e quindi necessita di un forte programma di assunzione. Ecco, dottor Salini, siamo qui per verificare. Ha cominciato ad assumere? Beh, direi proprio di sì, 3.400 persone quest'anno. E quante ne che tipo di professionalità cerca soprattutto? Beh, abbiamo un po' di tutto, perché poi ci abbiamo dai quadri, dagli ingegneri agli operai, quindi il nostro è un'assunzione a tutto campo. Però. Senta, e quanti sono gli italiani? Gli italiani quest'anno sono circa 700 persone. Senta, ma il Job Act favorisce queste assunzioni? Beh, direi di sì, può in futuro rendere più semplice assumere le persone. È uno sforzo importante per il governo, non basta, perché chiaramente le leggi non creano posti di lavoro. Senta, dottor Salini, qualche mese fa si parlava di un trasferimento all'estero della vostra sede legale sul modello Fiat, era vero? No, era una richiesta che ci facevano molti investitori, perché vedevano in questo una creazione di valore. E cosa vi ha fatto cambiare idea? Ma intanto il fatto che io tifo per l'Italia, quindi gioco in questa nazionale e sono qua bello radicato in questa città. Però siete usciti dall'ANCE, cioè dall'associazione di categoria dei costruttori, perché? Perché non rappresenta più le esigenze di un gruppo come il nostro, che ha chiaramente... Sono forme superate di rappresentanza. Sono anche forme superate di rappresentanza. In Confindustria però siete rimasti. In Confindustria siamo rimasti. Senta, insomma, no alla rappresentanza dell'ANCE, sì però al ruolo di playmaker, l'ha detto, dell'economia nazionale, con un piano di 36 miliardi per mobilitare il 2% del PIL. Ecco, ma dove li prende 36 miliardi? Ma io credo che bisogna cambiare fortemente la percezione di come si finanziano le opere pubbliche e capire che oggi non abbiamo disponibilità di mezzi, ma favorire invece gli investimenti dei privati. Se facciamo un esempio su tutti, tutte le nostre nuove iniziative sono fatte con investimenti privati e potranno essere fatte con investimenti privati. Ecco, ma al governo gliel'ha raccontato questo meccanismo? Ne ha parlato con Renzi? Sì, sì, abbiamo parlato e continuiamo a parlare con il governo di come cercare di fare delle nuove infrastrutture, perché le infrastrutture non sono solamente quello che gli uomini utilizzano tutti i giorni per migliorare la propria vita, ma sono anche un enorme volano per l'occupazione. E hanno capito il governo? Hanno certamente capito. È molto difficile in un paese come il nostro, che ha una stratificazione di normative difficilissime da rendere compatibili. Quindi la semplificazione normativa va di pari passo con lo sviluppo. Assolutamente, ma non ci possiamo aspettare colpi di bacchetta magica. Senta, intanto però la realtà di quest'anno per l'edilizia è che fa meno 6%, hanno chiuso 13.000 imprese. Insomma, è bravo solo lei praticamente. No, non bravi solo noi, però certamente la nostra dimensione ci aiuta moltissimo e il progetto che abbiamo fatto è essenzialmente questo, cioè quello di creare un gruppo che abbia le radici in Italia ma che sia proiettato all'estero. Nel mondo, ecco. Noi facciamo meno del 10% oggi in Italia. Ecco, bravo è bravo comunque. Ha liquidato tutti i suoi parenti nella Salini, ha scalato l'impresa Gilo, quando nessuno investiva, adesso ha commesse per 32 miliardi nel mondo. Più difficile scalare l'impregilo o liquidare i parenti? Ma i parenti non sono liquidati, sono saldamente degli azionisti della Salini, sono più soddisfatti di prima e questo aiuta molto. Senta, insomma, un uomo solo al comando adesso, le piace? No, ma io non sono un uomo solo al comando, sono il regista di una squadra molto ampia e con tanti protagonisti difficilissimi, perché come tutte le persone molto capaci sono difficilissimi da gestire. Senta, lei ha scalato l'impregilo, adesso su Rai Way c'è un tentativo di OPA, anche lì, lei come la giudica? Ma è certamente una razionalizzazione di un segmento che è quello delle antenne televisive, avrebbe il suo senso, ma questo non vieta certamente all'azionista di ritenere l'offerta non sufficiente. Ecco, però per l'Enel allo Stato è bastato il 30%, mantenere il 30%, in Rai Way lo Stato vuole il 51%, è una scelta politica o di mercato? È una policy, quindi ovviamente è una scelta politica. Senta, ma non è che arrivano più che altro al petto nei nodi non risolti del conflitto di interesse? Potrebbe essere, ma chiaramente oggi tutto quello che riguarda un certo tipo di dialogo con l'opposizione ha una sua valenza politica importante, quindi capisco che su questo ci siano delle difficoltà a gestirle in termini semplici. Senta, dottor Salini, ma tra i 32 miliardi di commesse che avete in portafoglio, quanta Italia c'è? Beh, c'è circa il 25%, è ancora importante, viene molto dal passato, è importante. Ed è sufficiente per proporsi, come fa lei, come player della ripresa complessiva? Direi di sì, perché possiamo fare una buona accelerazione, stiamo cercando di farla adesso con tutti i nostri clienti, perché mettere in campo queste grandi infrastrutture significa fare una cosa molto semplice, cioè creare veri posti di lavoro, che secondo me è l'unica cosa che un imprenditore deve fare. Ecco, ma a quali condizioni? Condizioni di mercato, cioè noi oggi dobbiamo assolutamente stare sul mercato, lo siamo in tutto il mondo, portiamo qui la nostra esperienza di azienda che vive nella competizione internazionale, nell'assoluta assoluta eccellenza di essere oggi un leader mondiale. Ma il governo cosa deve fare per sostenere la ripresa? Deve certamente mantenere le promesse, cioè quello che ha promesso per noi sarebbe sufficiente ed è quello che ci aspettiamo. Io credo proprio di sì, stiamo cercando di fare di tutto perché questo avvenga. Senta, intanto, per esempio, la riforma della giustizia civile, la legge sulla responsabilità dei giudici, può favorire gli investimenti? Sì, compreso il fatto che ci deve essere certezza del diritto, non possiamo cambiare ogni giorno opinione su che cosa sia giusto o sbagliato e soprattutto ci serve anche una certa sveltezza nella decisione. Velocità nei processi. In questo siamo molto lontani da quello che è il benchmarking mondiale. Mi sembra di aver letto che siamo al 90° posto nel mondo. Non è una cosa positiva. E poi non è che aiuta gli investimenti. Senta, dottor Salini, l'abbiamo detto, lei è leader in Italia, uno dei player globali delle infrastrutture. Tutto in pochissimo tempo, relativamente poco. Cosa ha capito che gli altri non hanno capito? Ma diciamo, io direi proprio niente, nel senso che noi abbiamo fatto un progetto chiaro e lo abbiamo seguito pedissequamente, cosa che secondo me oggi è un po' meno comune, nel senso che è difficile avere la chiarezza di quelle che sono una visione del futuro. Secondo me ecco, è importantissimo avere questo, ecco, in questo secondo me si dovrebbe applicare questo criterio un po' più spesso anche ai paesi. Oggi siamo in competizione con il resto del mondo, dobbiamo definire un po' chi siamo, che cosa vogliamo essere nel futuro e poi fare le varie scelte l'intuizione per lei, l'intuizione vincente qual è stata? È stata quella di puntare sulla dimensione e sulla diversificazione e soprattutto sulla competenza che le due aziende sommate. Ma la dimensione fa qualità? La dimensione fa qualità, consente investimenti che la scarsa dimensione non consente e consente di coprirsi da quei rischi che viceversa quando capitano delle aziende che osano eccetera, spesso sono mortali. Ma c'è stato un momento in cui hai avuto paura? Beh, ho avuto sempre paura, perché altrimenti senza la paura è il sistema migliore per riuscire a rimanere vivi. Ma qual è la qualità del suo carattere che l'ha aiutata di più nel momento di massimo rischio? Un po' di follia e la determinazione. Dottor Salini, si dice però che prima Berlusconi e poi Monti gli hanno dato una mano, è vero? Direi di no. No. Senta, tutti i grandi costruttori di infrastrutture nel mondo sono però anche bandiere nazionali. Lei si sente bandiera nazionale? Ma io quando vado in giro e vedo la nostra bandiera italiana piantata in tutti i cantieri, un po' il cuore mi si gonfia. Senta, lei ha detto che il ventunesimo secolo potrà essere il secolo del New Deal basato sulle infrastrutture. Perché? Perché si affacciano al benessere un numero impressionante di persone, e benessere significa migliore qualità della vita, e migliore qualità della vita non può prescindere da infrastrutture diverse. Abbiamo un mercato che è gigantesco in termini di infrastrutture, che sta crescendo. Infatti tra il 2013 e il 2017 si parla di 35 trilioni di dollari di mercato potenziale, così? È così, non solo, ma sta accelerando. Cioè noi per esempio all'inizio, quando sono venuto l'altra anno da lei, avevamo la percezione di avere un mercato nei prossimi 3 anni che valesse per noi come mercato generale circa 500 miliardi. Riguardandolo oggi vale 725, cioè è aumentato del 50% in un anno. Accidenti. Senta, intanto da Impregilo voi avete ereditato l'appalto per il ponte sullo stretto di Messina famigerato. Si farà? Beh, famigerato, io lo vorrei fare. Lei lo vorrebbe fare? Lo vorrei fare non tanto perché rappresenta un contratto e quindi un'occasione di lavoro, ma perché per me rappresenta il simbolo di un diverso approccio alle cose in questo paese. Allora, il ponte di Messina sono 40.000 posti di lavoro creati in un'area che ne ha un fortissimo bisogno e che oggi vive di sussidi. Ecco, secondo me bisogna invertire questa logica, bisogna creare benessere. Ma è il ponte di Messina che produce questa inversione di marcia? Il ponte di per sé li produce 40.000 posti di lavoro. E questo che significa? Significa che quello che oggi noi diamo alla gente per non fargli fare nulla, ne avremo in cambio il ponte di Messina. Abbiamo fatto un conto che poi è basato su quello che in audizione alla Camera il governo ha raccontato, e a fronte di 1,5 miliardi che era il contributo pubblico per realizzare questa infrastruttura, vorrei ricordare che di circa 6 miliardi del progetto solo 1,5 miliardi erano a carico dello Stato, il resto era tutto fatto da privati, e a fronte di questo investimento di 1,5 miliardi ne tornavano negli 8 anni 4,5 allo Stato. È un buon investimento, lo farei anch'io. Senta, perché non lo pensa quasi nessuno? Sbagliano? Io penso di sì. C'è una visione molto corta, come dicevamo da noi, che si basa tutto sul cercare di soddisfare le voci di tutti, e l'unanimismo costa molto. Costa carissimo. Senta, dottor Salini, lei dice che ogni nazione ha il suo sud. La differenza è che solo noi, per mancanza di creatività, possiamo puntare su cultura e turismo. Perché non servono cultura e turismo? No, servono molto, ma è un facilissimo alibi. Cioè, quando pensiamo al sud, che è un'enorme quantità di persone e un'enorme quantità di beni, ci accontentiamo di dire bene, vivranno di turismo, oppure vivranno di cultura. Allora, quando uno guarda, per esempio, che i Bronzi di Riace sono in un posto che necessariamente è complicato da raggiungere, che magari, non so, saranno visti da 1.000 o 2.000 persone all'anno, deve pensare che questo non basta. Cioè, cultura e sviluppo... Cultura e turismo non fanno sviluppo, secondo lei? Lo fanno, ma lo fanno nell'ambito di un piano che non può prevedere che cultura e turismo si autogenerino. Vogliamo pensare, per esempio, oggi la creazione di posti di lavoro per gli italiani, che è un fatto fondamentale. Noi non è che possiamo fare solo pizzerie in cui vengano a lavorare dei tunisini, dobbiamo anche pensare a che cosa fare per gli italiani. Forse bisognerebbe investire, no? Quindi un programma in cui uno deve decidere: siamo una nazione che al sud vuole fare turismo, bene, che cosa bisogna fare? Le infrastrutture alberghiere, le scuole di formazione professionale e, diciamo, un sistema turismo che possa consentirci di ricevere effettivamente le persone. Non stare lì a aspettare, però se lo sviluppo non ha bisogno di turismo e cultura così fermo e non in movimento, però di infrastrutture ci sono i 20 anni della Salerno-Reggio Calabria difficili da capire. Mi pare una pagina infelice per le infrastrutture, sbaglio? È infelice perché naturalmente attraversa un territorio in cui la presenza dello Stato solo ultimamente si fa sentire. Però senta, 8 anni per fare l'autostrada del Sole, 20 anni per la Salerno-Reggio Calabria che non è finita. Ecco, come spiega un'odissea del genere? Anche voi siete lì dentro? Sì, siamo lì dentro, la nostra parte grazie a Dio è finita, ma insomma sostanzialmente il tema è proprio questo, cioè quello di attraversare un'area del paese molto complicata dal punto di vista, cioè, proprio... comanda la malavita in quelle zone. No, non direi così, però certamente c'è una presenza molto molto complessa della malavita e c'è un grande lavoro dello Stato stato per cercare di mantenere l'ordine e vabbè, i risultati sono ancora lì che li aspettiamo, però per adesso. Nei 50 paesi del mondo dove siete grandi costruttori, quanto conta la corruzione? Dire, per noi pochissimo. Nel senso, non esiste, non la vediamo. Scusi, ma nel mondo del petrolio, per esempio, che è l'altra grande dimensione d'affari, si parla in continuazione di tangenti per avere appalti. Nel vostro mondo, nel mondo delle gigantesche opere pubbliche, niente? Ma no, perché le gigantesche opere pubbliche prescindono da questo tipo di sistema. Normalmente sono fatte con delle gare internazionali, con grandissimi concorrenti e con molte centinaia o migliaia di ore spese nel riuscire a semplicemente fare l'offerta. Oggi, per farle un esempio, abbiamo appena sottoposto l'offerta per il treno, una ferrovia in Oman. Il costo di questa offerta da sola per farsi sono 12 milioni di euro per lo studio dell'offerta. È chiaro che questo significa una grandissima selezione di chi partecipa. Dottor Salini, ci sarà una zona del mondo in cui si è più a rischio anche nella costruzione di infrastrutture da questo punto di vista? Ma io direi di no, guardi, nella nostra percezione questo non c'è, ripeto, forse è la dimensione che ci cambia la percezione, cambia la e anche il sistema di regole a cui siamo sottoposti. È evidente che oggi, se lei guarda com'è l'impianto di controllo di un'azienda come la nostra, è più regolamentata di una banca. Ma siete presenti in 50 paesi, da dove arriverà la crescita futura? Ma noi ce l'aspettiamo molto dal Medio Oriente, quindi diciamo da tutta quell'area che siamo oggi, in cui siamo molto presenti, dagli Stati Uniti, in cui siamo crescendo molto bene, e da tutta la parte del Nord Europa, in cui anche pensiamo che ci possa essere una buona crescita. Ecco, nel mondo islamico, terrorismo e instabilità vi hanno costretto a cambiare strategie e obiettivi? Dipende dove. Certamente avevamo un mercato come la Libia, e in cui sostanzialmente oggi abbiamo dovuto fermare tutte le attività. Cioè, siete usciti dalla Libia? Sì, per forza. Ma è stato un errore uccidere Gheddafi? Direi pesantissimo, anche per l'instabilità che questo comporta. Abbiamo una guerra a 40 km da casa. Ma pensa che le minacce dell'ISIS possono arrivare a colpire l'Italia, il Vaticano in particolare, che è un simbolo? Ma penso di sì, atti terroristici non sono escludibili, anche se sostanzialmente il fatto di mettere la bandiera sulla cupola mi sembra molto più difficile. Ma voi, dopo i fatti di Parigi, avete modificato la politica nei cantieri? Vabbè, la Libia l'ha detto. Ma certo, ci sta una grande attenzione, perché come sembra semplice capire, in tanti paesi noi potremmo essere bersaglio di estremisti o di azioni dimostrative. E come vi preparate? Abbiamo aumentato molto la sicurezza, e quindi la gestione della sicurezza, che rende un po' più complicato funzionare, vivere e andare in giro per i paesi in cui siamo. Ecco, lei dice: siamo un'eccellenza italiana nel mondo. Ecco, ma esiste un made in Italy delle costruzioni che le fa diverse, le costruzioni italiane? Ma direi di sì, abbiamo una capacità ingegneristica assolutamente di prim'ordine, siamo stati i primi del mondo a fare tante cose. Oggi, per esempio, ecco, per dire noi, quest'anno abbiamo fatto il record del mondo del concrete placement, che sarebbe il fatto di fare calcestruzzo in una singola gettata, e il record del mondo, che prima avevano i cinesi, siamo riusciti a riprendercelo sulle dighe in roll concrete, che è una sciocchezza dal punto di vista dimensionale, però è una grande soddisfazione dal punto di vista complessivo, ecco, tecnico. Nei prossimi anni le costruzioni saranno sempre più verdi. Voi con le vostre dighe siete stati anche accusati di distruggere l'ambiente. Adesso avete adottato una politica di sostenibilità. Cosa vuol dire in concreto? Beh, significa l'attenzione a tutto quello che fa sì che la nostra presenza, invece di essere un problema, diventi invece un fattore di sviluppo. Cioè, il bilancio di sostenibilità che noi tracciamo è un bilancio che ci vede classificati A+, che è il massimo di quello che può avere un'azienda da questo punto di vista. Significa grande attenzione a tutti questi temi, dai temi della sostenibilità ecologica a quella della gestione delle relazioni sociali. Quindi avete cambiato un po' linea, insomma. Noi abbiamo cambiato perché questa attenzione ce l'abbiamo sempre avuta. È evidente che fare degli oggetti come quelli che realizziamo noi non sono dei vasi di fiori. No, incidono pesantemente in maniera molto importante sul territorio. Però faccio un esempio: si crea una grande diga. È chiaro che quel momento e quello specifico cambia in maniera profonda il posto. Si crea un lago dove prima non c'era, prima c'era il deserto, adesso c'è un lago. Allora dice: hai cambiato profondamente l'ambiente. Sì, certo, però lo abbiamo anche trasformato in qualcosa di utile, perché abbiamo dato l'energia alla popolazione. Senta, ma l'essere un appassionato di agricoltura, come so che lei è, incide su questa sua sensibilità verde? Incide assai. Io mi diverto con l'agricoltura, mentre moltissime persone, che tra l'altro, ecco, volevo ricordare che quello che mi piacerebbe che si vedesse di più anche in televisione o alla radio, la presenza di un mondo che oggi non si vede, che sono gli agricoltori, che sono i pescatori, sono gli artigiani, cioè come se una classe della nostra nazione sia in qualche misura invisibile. Colpa dell'informazione. Sì, direi sì. Che bisognerebbe accentuare sul lavoro grandissimo che fanno queste persone e sulla loro dignità un po' più di tempo, piuttosto che stare solamente spettacoli di divertimento. Ecco, sulla mia attività agricola io noto che, per esempio, uno dei fattori importanti è la complessità delle norme che lo riguardano. Gestiamo cantieri e contratti difficilissimi. Quando vado a leggere come funziona prendere un contributo per una cosa qualsiasi in agricoltura, mi è impossibile. Rinuncia. Senta, il Novecento è stato il secolo dell'acciaio e del cemento. Quale sarà il materiale con cui si costruirà in questo secolo? L'intelligenza, io spero. Ma vi preoccupa la prospettiva che le infrastrutture nel futuro saranno sempre più immateriali? No, direi proprio di no. Anzi, la parte immateriale sarà sempre più importante, perché la velocità di trasmissione delle informazioni sarà determinante per noi e per il resto del mondo. Ma non si può prescindere dal fatto di muoversi anche noi come esseri umani, e quindi io continuo a credere in metropolitane migliori, in autostrade migliori, in porti migliori, aeroporti migliori. A proposito di auto, di porti e di canali, adesso avete vinto a Panama un arbitrato importantissimo per realizzare il nuovo canale. In due parole, com'è andata? Beh, abbiamo avuto finalmente ragione dopo che il nostro cliente aveva cercato in tutti i modi di metterci all'angolo, quindi adesso penso che questo significhi una nuova occasione, ecco, di riuscire a dimostrare che siamo stati bravissimi. L'abbiamo anche continuato nonostante avessimo il diritto, infatti, di fermarlo, e adesso ci deve restituire quello che ci ha levato. Ecco, ma per vincere arbitrati così basta avere ragione o ci vogliono dietro gli stati? Ci vogliono dietro tutte e due, bisogna avere ragione e avere dietro una grande forza. Senta, ma delle centinaia di opere realizzate nel mondo, qual è quella di cui è più orgoglioso? È la diga di Legadadi che ha fatto mio padre, che è stata la più grande realizzazione per l'epoca della nostra società, quella che ha cominciato tutto. Senta, è passato un anno di governo Renzi, che voto gli dà? Beh, gli darei un voto molto positivo, ha ristabilito un clima di fiducia nel paese. Che voto? 8. 8? Cosa si aspettava, diciamo, invece che non è capitato, per arrivare a 10? Ma direi molto complicato questo suo agire, perché naturalmente si va a misurare con fronde interne, fronde esterne, quindi insomma, ecco, io quell'8 per adesso lo mantengo. Un'ultima domanda. Ma qual è l'infrastruttura decisiva per l'Italia che lei vorrebbe convincere il governo a fare? Ma ce ne sono tantissime, direi oggi. Una più di altre. Mi piacerebbe che Pompei, che è un'infrastruttura turistica fondamentale, avesse un futuro diverso da quello che sta avendo adesso. Mix 24. E più che lunedì è marzo, e oggi metropolitana c'era Ares, non aveva la corazza scintillante ma era avvolto da energie, era carismatico al punto che lo sferragliare del treno aveva abbandonato lo stantuffo per assumere il ritmo del tamburo. Lui è quello che i latini chiamano Marte. È un vero soldato, e con lui c'era una donna vestita con l'eleganza propria delle gazzelle. Aveva i fiori a tracolla ed era segno della sua speciale nobiltà. E questa donna approntava il più complicato dei mesi, appunto marzo, con la sua faretra, quei colori, le forme di un campo di battaglia caro ad Ares, quello che i latini chiamano Marte, che è appunto la primavera. giardini di marzo si vestono di nuovi colori. Che vedo, Mario, la primavera? Io che beh, ancora non si vede. Non si vede ancora, però c'è. Ci siamo fatti l'influenza. Tanto ci siamo portati avanti con la fantasia. No, ma è. Che è una buona fantasia, cosa. È un'immaginazione. Bolla! Vai. No, from Russia with love I fly to you. Allora, dalla Russia con amore. Ci vuole James Bond per risolvere questo problema di Nemtsov. Mi pare di sì. Allora, vediamo un po' di riordinare le cose senza, come dire, mettendo le cose come stanno, cioè i fatti, diciamo così. Allora, nei mainstream occidentale passa questa cosa, Giovanni, io sono un po' esterrefatto, ma che Putin è un assassino, cioè, vabbè, che, non c'è nessuna che, prova in questo lui, caso, che è lui il mandante dell'assassinio di Nemtsov, che era un esponente politico dell'opposizione, una piccola opposizione che non era neanche entrata in Parlamento, ma insomma, questo sta passando, questo viene detto, e insomma, io mi pongo delle domande, poi ognuno si fa la sua idea, ovviamente, però io sono abituato a fare così, pormi dei quesiti. Un leader con l'80% dei consensi in patria ordina l'assassinio di un leader dell'opposizione sotto il Cremlino? Prima domanda. Seconda domanda, è un killer professionista ammazza un leader dell'opposizione russa sotto al Cremlino, lasciando viva la persona che l'accompagnava, la signora che l'accompagnava, l'unica testimone? Altra domanda dalla quale io mi attendo, come dire, delle risposte. Delle risposte. Terza, un killer professionista spara 7 colpi per ammazzare una persona sola che passeggia? Deve essere sicuro. Beh, insomma, professionista non ne spara 7, non va con una macchina facendosi prendere, soprattutto lì in un posto aperto, ripreso dalle telecamere e così via. Però vabbè, questo è. Ma voi vi siete fatti un'idea di questa storia, Giovanni? Io mi sono fatto l'idea che è una storia ancora tutta da capire. Condivido le tue incertezze. Io vorrei ridurre tutte le tue domande all'unica domanda. Cui protest? Appunto, che è una delle domande centrali. Ma manca la risposta per no. Adesso. Salamino! Roberto Saviano l'aveva detto dicendo del suo avere detto un chiaro e forte no. E questo aveva detto. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nessuna presa a te, invece mo nu frate, una sora, una nipote, sola non stai una volta, usciamo sempre a tre. È mai promesso. Ah, la sorte delle primarie! Il partito di Matteo Renzi in quel di Campania, e sto parlando del partito di Matteo Renzi, il cui luminoso segno vanta al nord i sorrisi di Maria Elena Boschi, in Europa quelli di Federica Mogherini e al sud Pina Picerno, no? Allora, questo partito meraviglioso, bello, soave, ha superato il guado partenopeo conducendo alla vittoria delle primarie PD Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. Ma Saviano l'aveva detto! Che è successo? Allora, lui aveva detto no, ma 160.000 partenopei, e direbbe Totò, e parte napoletani, hanno votato. E così il plebiscito carismatico meridionale ha battuto il plebiscito piritollico meridionale. De Luca non lo voleva il PD. Non lo voleva Saviano, non lo voleva Luciana Littizzetto, a quanto mi riferiscono fonti ben informate, non lo voleva neppure Papa Francesco, perché Renzi voleva Raffaele Cantone. Ma l'attuale capo dell'anticorruzione forse è tenuto in caldo perché adesso si apre un altro capitolo delicato. Quale? ci sono gli estremi del 61-0 in Sicilia. Non ci posso credere. Sì, però dai, non con Micciche come quella volta, ma come dice Davide Faraone, aprendo la sua Leopolda in quel di Palermo, in Sicilia, dove il Partito Democratico di Matteo Renzi è diventato il porto sicuro di naufraghi arrivati da ogni dove. Innanzitutto da Forza Italia, poi dal partito del predecessore di Crocetta, e dal partito del predecessore di Crocetta, e dove tutto si crea e nulla si distrugge. Insomma, la morale è una: Saviano da un lato, Candone dall'altro lato, dopo Napoli scendono a Palermo, e come si dice, come proclamava la saggezza borbonica, a Napoli fanno il sciummole e a Palermo i vanno a risolvere. Insomma, ancora una volta nelle mani di San Gennaro. Hai capito che giro di Peppa, eh? Vai con una bolla. E le Sicilie due sono. Allora, questa è bellissima, sempre siamo sempre in tema Russia, questa è la colonna sonora di Casa Russia, straordinari pezzi che si alternano gli uni con gli altri, per dire che cosa? Che c'è tutto un filo, guarda, la guerra in Ucraina, l'omicidio di Nemtsov, la crisi del gas prima, eccetera, eccetera, eccetera, e adesso, guarda caso, i tedeschi hanno deciso di aumentare la spesa della loro difesa, che era ridotta a niente. Penso che non riuscivano a spedire i materiali in Iraq con gli aerei perché erano fuori uso. Insomma, la notizia è che aumenteranno la spesa e verrà ricostituito un battaglione di carri armati che erano in disarmo, avevano due Leopard, sarà basato a Bergen, Bassa Sassonia, e dunque Achtung. Mamma. In der Furgen und Achtung! Dentro in der Kalken marciamo po po po. Ma è così. Mix 24. Mario, sì. Andrea ci scrive: sì. Non vorrei offendere l'apparato investigativo di Radio 24, ma nel frattempo tutti gli oppositori di Putin o sono in galera o sono sottoterra. È la Russia. Diciamo ad Andrea. Che è la Russia. Che è la Russia. La storia della Russia è questa. E io non sto dicendo che Putin sia uno stinco di santo. Bisogna essere chiari. Però l'ho dato per allargare l'orizzonte della riflessione. Due, tre domande, una se le pone. E la allarghiamo anche con la quota rosa di Sara. Io mi sveglio, colazione, cappuccino e due paste con la crema, belle calde per favore carucino. Che ne dici stamattina, come gira questa Italia, come gira? Vedo un grande movimento, ma di palle soprattutto. Ma gira di palle, perché dura lavorare, soprattutto per le donne, visto che il gap degli stipendi, appunto, tra noi e i maschietti è ancora lì irrisolto, ignorato dai governanti di ogni sesso fino ad oggi, perché Hillary Clinton, candidata alle presidenziali americane, si è fatta due conti e ha deciso di puntare proprio sull'elettorato americano femminile, che è più della metà degli aventi diritto al voto. E da dove comincia Hillary? Proprio denunciando la differenza salariale tra uomini e donne. Probabilmente sono solo promesse elettorali, ma a me piace pensare che Hillary si sia ricordata di una frase di Madeleine Albright, segretario di Stato prima di lei: c'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne. Finché non lo capiremo, meglio stare in vacanza. Annoiata, me ne accorgo, sono sempre più agitata, però in fondo mica male se tornassi per un giorno liceale. Il ponte deve essere finito ad ogni costo. Ne va della salvezza del quarto corpo d'armata e del viceré. Si farà il possibile. È l'impossibile. Non siamo forse i soldati di Napoleone? E lui ha detto che nel suo vocabolario la parola impossibile non c'è. Insomma, i ponti vanno fatti. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms per chi vuole chiamarci perché ha indovinato. Intanto Mario, la tua bolla. Sì. Questo è un pezzo bellissimo, è Groove Armada, un gruppo che consiglio a quelli che vogliono un po' animarsi, un po' di ritmo, no? Friends mi pare si chiami, adesso potrei sbagliare ma vado a memoria. E per dire che cosa? Che c'è una guerra in corso molto interessante, parliamo di tecnologia, la guerra degli smartphone e dei produttori di microchip e di converso, come vedrete, anche di auto, cose che noi seguiamo con grande attenzione. E la prima è che oggi Samsung presenta il suo Galaxy 6, è uno, un telefono che ha uno schermo un po' tondeggiante, sul quale ci sono varie recensioni, ho visto tra il bene e il male. Comunque sai, è la sfida con Apple, anche se Samsung sta perdendo terreno un po' in questo settore. Beh, si stanno facendo grandi produttori cinesi, Xiaomi e altri, che stanno sfornando prodotti molto interessanti. E la seconda notizia, secondo me assai interessante, è che NXP, un produttore olandese di microchip, ha acquistato Freescale, che è un altro produttore americano, per 11,8 miliardi, e fanno microchip per auto. E anche oggi il nostro Lune Libro di Alessandra Fiori. Quando compare quella tenerezza struggente verso i genitori? Quando, al bisogno di essere protetti, si sostituisce quello di proteggere? Libero, a 12 anni, assiste al tradimento di sua madre con il migliore amico di suo padre. Si apre così l'educazione erotica e sentimentale del protagonista di Atti Osceni in luogo privato, di Marco Missiroli. In una Parigi che sta per celebrare la morte di Sartre, Libero scopre nella lettura l'antidoto al suo sentirsi invisibile e parte alla ricerca di se stesso per compiere il destino scritto nel suo nome. Ma cos'è la libertà? E come si diventa se stessi? In una continua oscillazione tra candore e oscenità, Libero attraversa i capitoli della sua vita. Superata la solitudine dell'adolescenza, ecco la giovinezza e la paura di non essere più vulnerabili per se stessi. La scoperta dell'amore come una prima persona plurale. Con la maturità, nuovi atti osceni segnano un nuovo incipit. Ma è oscenità o si chiama vita? Qualunque cosa sia, la rivoglio, dice Libero, e torna alla ricerca di quella parola in grado di contenere ogni sua personalissima forma di libertà. Atti osceni in luogo privato, l'ultimo romanzo di Marco Missiroli, pubblicato da Feltrinelli. Era il Lune Libro di Alessandra Fiori. Matteo Salvini arriva a Roma, si prende Piazza del Popolo e già comincia la ita. Chi c'era a Piazza del Popolo? Lasciata Piazza Venezia, marciando a passo di corsa lungo Via del Corso, è arrivato lui. Ma dove vanno questi di oggi? Tutti piccoli, brutti, con ste gambette, con ste gobbe, con gli occhialini, tutti pali, con sti fuglietti, noi famo, noi andiamo. Ma dove vanno? Cosa fanno? Il dolce secca, la cappella longa, ma c'è tutto lui. Allora, Roberto Speranza, facendo il musetto così, fai il musetto, fallo così, chi c'era? Che cosa ha detto? Così voi, così. No, musetto a culetto di gallina, ha detto no, il duce no, il duce no, il duce in piazza no. Non si può, non si può, non si può, ed è sempre solo trama. Trama nera, solo sempre trama nera. I giornali alzano alti l'AI, anche Forza Italia, Nuovo Centrodestra e anche varie anime candide offrono voti augurali e a ben pensanti, ma tutti loro, insomma, un po' di dispetti si possono fare. Una dedica, eccola. Ciao biondino. E così almeno sono, hanno una conferma. Pietrangelo, mamma mia. Oh, c'era il pelatone. Io mi, piazza, devo, mi devo scusare con Alberto, che dice ok, basta tossire in diretta. È vero, però sono veramente messo male, mi dispiace. Non siamo posso tutti malati qua. Siamo umani. Oggi, subito dopo il giornale radio, un omaggio a Lucio Dalla attraverso le parole di Renzo Arbere e Caterina Caselli. Non aveva schemi, lui faceva nuvolari, poi faceva come profondo il mare, poi faceva attenti al lupo per divertirci. Era un intellettuale, ha raccontato benissimo l'Italia. Quando è morto Lucio Dalla tutti ci siamo sentiti un pochino orfani, come ci si fosse mancato qualcosa. Purtroppo quando se n'è andato ci siamo resi conto che la sua è una grandissima personalità. Era veramente tanto in tutti i sensi, una persona veramente curiosa e andava a fondo alle sue sollecitazioni. I suoi testi sono veramente da leggere oltre che da sentire, da ascoltare. Una poliedricità veramente che pochi hanno. Erano Renzo Arbore e Caterina Caselli. Dopo il giornale radio raccontiamo Lucio Dalla a cura di Marina Milone, ma prima della pubblicità acqua e sapone degli Stadio.